Il punto di Stefano Folli. Bene ha fatto il Premier Renzi ad avviare un'offensiva anticorruzione sull'Expo di Milano. Ci sono due aspetti che il capo del governo non può tollerare. Il primo è che l'Italia comprometta la sua immagine su un terreno, l'esposizione internazionale del prossimo anno, su cui avrà gli occhi di tutto il mondo addosso. Il secondo è che passi nell'opinione pubblica l'idea che è esplosa la nuova Tangentopoli e che le autorità sono complici o, nel migliore dei casi, deboli e indifferenti. Ecco perché arriva in soccorso il magistrato Cantone, in apparenza accolto con soddisfazione da tutti, perché siamo, potrebbe dire, all'ultima spiaggia. Le elezioni si svolgono fra meno di 2 settimane e dunque è ora, cioè in questi giorni, che l'elettorato sta scegliendo come votare. E le ragioni della scelta toccheranno l'Europa in parte, ma soprattutto riguarderanno la credibilità della nostra classe politica, credibilità che continua a essere precaria. È il tema di sempre, ma stavolta non ci sono più alibi per nessuno.